Benvenuti ad Absolute Beginners. Ciao Sasa. Ciao Babe, ciao a tutti. Benvenuti a questa nuova puntata. Siamo tornati quasi immediatamente a Chicago. La prima puntata di Absolute Beginners era sugli Effigies, un gruppo seminale dell'hardcore di Chicago. E avevamo detto che a Chicago non è che ci fosse tutta questa grande produzione musicale e non c'era neanche stata. Chicago era famoso per il blues, per il jazz, ma fino agli anni 80 poca roba. Beh, invece ora siamo all'inizio degli anni 90 e siamo nel mezzo di una scena che viene chiamata Now Wave, un richiamo a quella che veniva definita Now Wave, musica degli anni 70 di New York, e parliamo di un gruppo chiamato Flying Luttenbachers. Sì, o qualcosa del genere. Qualcosa del genere. We'll be right back. Questi sono i Flying Luttenbachers o Luttenbachers, vai a capire. E i nostri aficionados si staranno chiedendo: ma Babi e Sassà sono impazziti, cosa si danno? Jazz? Ma non è jazz. No, beh, prima di tutto direi free jazz, se proprio si bisogna usare la parola jazz. Parliamo di una formazione capitanata, beh, prima di tutto composta da una batteria e due fiati, due sassofoni. Che già è strano effettivamente per il rock, quindi beh, sì, chi ci ascolta, qualche dubbio legittimo se lo fa. Capitanata da Weasel Walter, il batterista di questo gruppo, unico membro che fa parte del progetto per tutta la discografia e, beh, capo indiscusso e, mi permetto di dire, quasi dittatoriale. Sì, sì, era colui il quale dopo due o tre dischi, due o tre incisioni si rompeva le scatole, mandava tutti a casa e ripartiva da zero. Infatti oggi di solito esploriamo le prime uscite dei gruppi. I Flying Luttenbachers non penso abbiano mai avuto un grandissimo successo. Oltretutto, praticamente, ogni due o tre dischi ripartivano da zero, quindi erano un continuo esordio. Infatti abbiamo deciso di proporre brani da tutti gli album della loro discografia, che è uscita a cavallo di tutta la decade dei 90. Sì, questo qui erano due EP che raccoglievano le primissime cose, si chiamavano 546 Seconds and l'altro 1386 seconds, la durata banalmente la durata del disco, niente di più. Seconds of noise. Of noise, ovviamente. Però in realtà, Weasel Walter era ancora un ragazzino, ma qua aveva avuto neanche 20 anni. Ma a Chicago, lui non era di Chicago, era di Rockford, una cittadina non troppo distante, si era trasferito per studiare musica, appunto, e conobbe questo vecchio, tra virgolette, sassofonista che veniva dagli Energy, che erano un gruppo abbastanza conosciuto, che faceva roba abbastanza particolare già negli anni 70. Anzi, un gruppo che aveva cercato a Chicago di rinnovare il jazz, che negli anni 70 da un certo punto di vista stava morendo, si stava accademizzando, non so come dire. Ma infatti in questo primo album poi sentiremo suoni diversi nei prossimi, e forse questo è quello più legato a atmosfere free jazz che prima abbiamo citato. E i richiami dei fiati sono forse quelli di Albert Tyler, Cecil Taylor, e io sento anche parecchio i Lounge Lizard in questa musica, prima dei Flying Luttenbachers. Insomma, Hal Russell, questo era il sassofonista che il giovane Weasel Walter era riuscito ad ingaggiare, non riesco a immaginare come, un ragazzino che va da un sassofonista comunque famoso, veniva appunto dagli anni 70, da quel jazz, ma qua si va abbastanza oltre, adesso capirete bene il perché, anzi, non è che lo capirete, lo sentirete. Beh, diciamo che Weasel Walter si sapeva fare con la batteria, e aveva fatto bene a trasferirsi a Chicago. Un buon insegnante di batteria aveva trovato, magari immagino un batterista jazz, ma poi lui era andato oltre. Sì, di batterine deve aver suonato davvero un bel po', capace di suonare qualunque cosa. Weasel Walter prima per scherzare l'ho definito un capo dittatoriale, per scherzare fino a un certo punto, ma di sicuro a suo credito va le sue idee, la sua continua necessità di cambiamento, di evoluzione, avendo sempre un'idea precisa in testa di quale sarebbe stato il suo prossimo step, il suo prossimo album, collaboratori e il suo prossimo suono. Tipo questo. Questi erano i Flying Luttenbachers, e come dire, non è che vedere dal vivo fosse un'esperienza da tutti i giorni, ma sicuramente era un'esperienza molto più gratificante che sentirli su disco, anche perché il buon Visual Walter, come tanti altri di Chicago di quegli anni, suonava in una miriade di altre band, e quindi forse gli veniva anche facile disbandare e ritrovare altri musicisti. E la famosa scena di Chicago di quegli anni, che si stava agglomerando attorno a un bar che si chiamava lo Czar Bar, era veramente rigogliosa. E i più famosi erano sicuramente i Luttenbachers, poi c'erano le Sister Girls, i Trenchmouth, e poi subito dopo altre band si chiamavano ovviamente con nomi assurdi: Matt, Specula, Duesses, Slope, Moonman, Anthropod Vector, Mother Country, Dead Rattle, ovviamente sto leggendo perché sono troppe, Too Fast for Love, Carnival, The Carnitas, tutte. Poi siamo nel 93, nasce ufficialmente nel 93 questa scena. E tutte queste band sarebbero poi, molte di queste band sarebbero finite in un'etichetta meritoria di Chicago dell'epoca, la Skingraft, che avrebbe poi contribuito notevolmente alla crescita di questa scena, cioè un gruppo di persone interessate in questo caso a fare musica sperimentale per il gusto di farla. Sì, infatti fino al 95 i Flying Luttenbachers registrano per la UG Explode, e poi passeranno anche loro, come hai detto tu, a questa Skingraft Records. E questa scena di cui hai citato un po' di band, sicuramente c'era un grande interscambio tra i membri. E prima hai citato Jim O'Rourke, che poi è stato per un certo periodo un quinto Sonic Youth anche, suonò spesso con i Flying Luttenbachers, chissà quando, chissà dove, chissà perché, ma questa scena era molto, i personaggi si interscambiavano, i gruppi collaboravano e dialogavano, e beh, tutto quello che ha a che fare con una vera e propria scena. Esatto. We'll be right back. a dirla tutta, io i Flying Newton Batches li riscoprì con questo suono. Vennero a Bologna al Link, non so, forse era 99, 2000 o giù di lì, e fu un disastro, nel senso, un bellissimo disastro, perché come dicevo prima, vedere dal vivo non era assolutamente un'esperienza da tutti i giorni. Non abitavamo a Chicago, era molto distante Chicago nel 99, e vedere un gruppo del genere arrivare, e un matto con la faccia pitturata di bianco come se fosse un cantante black metal, e dei segni neri sotto gli occhi, e con due cornine, con i capelli davanti che sembravano due cornetti, che suonava una batteria con un set ridottissimo, ma con un gong che veniva brutalizzato con delle mazze da batteria jazz, però usate a una velocità folle. Me lo ricordo ancora, fu abbastanza impressionante. Qua era una nuova formazione, Ken Bandelmark era stato più o meno fatto bidonato uscire dal gruppo, diciamo, e qua cosa è diventato? Death Jazz, per Death Metal. Certo, siamo passati infatti all'uscita del discografica del 95, Destroy All Music, quindi la distruzione regna comunque sovrana nei titoli degli album dei cari Flying Luttenbachers, e mi sembrava doveroso comunque, oltre a questa nuova ispirazione che viene dalla velocità e il caos del death metal, mi sembrava doveroso anche citare i suoni, le referenze alla scena di la scena no wave di New York del 68, quindi gruppi come Mass, Contortions, EDNA e tutti i gruppi che fecero parte della compilation No New York del 1978, prodotta o organizzata da Brian Eno. Insomma, questi suoni si sentono in questo album e nella musica dei Flying Luttenbachers. Solo che l'approccio era quasi opposto. Se nel 78 quasi tutti erano non musicisti, che provenivano quasi tutti da scuole d'arte, questi invece erano tutti musicisti ben preparati, che non venivano dalle scuole d'arte. Da un certo punto di vista erano dei selvaggi, si sente. Si sente assolutamente. Non c'è alcun tipo di approccio artistoide, diciamo. Concettuale, no? Se risulta quasi più grezzo, sporco e così pieno e così carico. mica male. Beh, no, siamo sempre qua, Absolute Beginners, e scusate se mi viene da ridere, ma abbiamo ascoltato un brano che si chiama Storm of Shit. Ma fanno ridere, la cosa bella dei Flying Luttenbachers è che fanno ridere. Sì, assolutamente. Non si prendono sul serio loro per primo, forse sì, non ho mai capito, però a me hanno sempre fatto un sacco ridere. Sì, la traduzione forse non è necessaria di questo titolo, comunque una cavalcata piena di... rumore costruito? Sì, piena di merda, dai. Ecco. Ecco, l'abbiamo detto. Un po' di recensioni che parlavano all'epoca di questo album. Le vostre orecchie hanno bisogno di un po' di buon casino? Questo potrebbe essere quello che state cercando. 10 pezzi del più indigesto e avanguardista guitar noise mai uscito dagli States. Ah. Questi sono proiettili di rock and roll che fischiano in aria e atterrano ancora roventi nel vostro giardino. Cibo per la vostra mente e il vostro corpo. Compratelo. Questa era Many, a proposito di Revenge, su Kerrang, che Kerrang era una rivista che si occupava fondamentalmente di heavy metal, ma qui si debordava ampiamente nel death metal. Sì, quindi siamo, come hai nominato tu, siamo passati a Revenge of the Flying Luttenbacher, il primo appunto segno passaggio del gruppo alla Skingraft Records che avevi nominato prima. E poi diventa un trio classico, chitarra, basso e batteria. Sì. E sentiamo, la batteria è thrash metal, direi proprio quasi puro, greencore, non lo so, insomma... Sì, penso che Mick Harris gli darebbe una pacca sulla spalla, okay. Dei Napalm Death. Thank you, ladies and gentlemen! I know you like rock and roll music. I would like to introduce our next act. It is called... A band called the Flying Luttenbachers. That's good. Try it again. All right, ladies and gentlemen, thank you for coming out. I would like to introduce our next act of rock and roll music. They're called the Flying Luttenbachers. Very good. Let's try it again. And now, ladies and gentlemen, the band that we have all been waiting to see, the Flying Luttenbachers. Okay. The band that we have all been waiting to see. Ladies and gentlemen, help me in welcoming the Flying Luttenbachers. One more time. And now, the band that we've all been waiting to see. Help me in welcoming the Flying Luttenbachers. You gotta slow down a little, you're a little fast. And now, the band that we've all been waiting to see. Ladies and gentlemen, help me in welcoming the Flying Luttenbachers. Okay, one more time, real slow, okay? And now, the band that we've all been waiting to see. Help me in welcoming, ladies and gentlemen, the Flying Luttenbachers. Thank you. Shut up! Questo è un jazz spaventoso, esplosivo, non-stop, una musica incredibilmente feroce. I Flying Luttenbachers potrebbero essere la prima band jazz a girare nella testa di tanti headbangers. Un sax urlante, una chitarra stridente, un basso tuonante e una batteria free death. Come se degli zingari vi rapissero un figlio e lo mutilassero davanti ai vostri occhi. Come Nerone che cantava mentre Roma bruciava. Eccovi una vaga idea, non provate a scopare con questo album in sottofondo. Questa era Lee Pemberton su Constructive Destruction, a proposito di Constructive Destruction, su The Lumpen Times del 21 agosto del 94. Beh, ebbe un buon impatto. Certo, vabbè, dopo questo io non mi sento proprio di aggiungere altro. Penso che questa descrizione possiamo salutare. Sia assunto di tutta la puntata. Quindi... grazie per la pazienza, per l'ascolto, speriamo che abbiate apprezzato questi matti chicagoani e alla prossima. Ciao a tutti.